per davvero, per davvero. Un chilo nel baule, per davvero. Cuscino senza piume, per davvero. In giro tutto il giorno, se, per davvero. Sotto i palazzoni, per davvero. E ha mollato scuola, se, per davvero. E ne fumo 5 all'ora, se, per davvero. Mia mamma non lavora, no, per davvero. E farò una rapina, per davvero. I fra fanno le bustine, per davvero. E poi le vendono in cortile, per davvero. Fanculo alla